Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in your baby. I got faith. La Catalogna indipendente, Rajoy, criminali, il Corriere della Sera. La grande rottura nel PD invece apre la Repubblica, anche se la foto è sempre per la Catalogna. Ha destituito il governo, Catalogna al voto. Il pugno di Rajoy sulla Catalogna, Barcellona vota l'indipendenza, Madrid ordina la chiusura del Parlamento, così la Stampa. Il Giornale invece, Barcellona adios. Che poi è lo stesso titolo del manifesto, possiamo dirlo? Adios, sì. Possiamo dirlo che il manifesto è il giornale con lo stesso titolo, insomma. È la prima volta. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, la foto è quasi la stessa, anzi no, questa volta le foto sono, ci sono foto anche diverse. Sulla notizia di ieri, sulla l'indipendenza proclamata da Puigdemont e contemporaneamente ognuno per la sua strada. Madrid che dichiara destituito il governo, ci saranno nuove elezioni. Insomma, il 21 dicembre ho visto, il 22 dicembre, una cosa che da noi sarebbe impossibile due giorni prima di Natale. Un bel pastrocchio sempre di più, e poi però giornali che guardano anche ai pastrocchi italici. La grande rottura nel PD, scrive Repubblica, esatto. Si riferisce ai tre ministri renziani e alla Boschi che hanno disertato il Consiglio dei Ministri per la nomina sul Visco bis a Banca Italia. Il Corriere scrive l'ok a Visco, renziani assenti. E poi ancora. E poi diciamo che chi più e chi meno dalla notizia della questione dei documenti su JFK desecretati da Donald Trump, il Fatto Quotidiano ci fa l'apertura. Un poliziotto sparò il colpo mortale a JFK, ma attenzione perché è un virgolettato. Se poi si legge l'articolo si capisce che è un'intercettazione, un informatore che disse il presidente era stato assassinato dall'ufficiale di polizia di Dallas Tippit, che poi a sua volta venne ucciso da Oswald 45 minuti dopo. Allora, la Stampa invece ha titolo principale su bruciano i boschi, una nube oscura il cielo di Torino. Ora emergenza inquinamento, polveri sottili 9 volte superiori al limite. La Protezione Civile che dice è impossibile dire quando finirà, riferimento a quello che sta accadendo in Piemonte con questi incendi. Ieri in particolare in Val di Susa, scrive la Stampa, alimentate dal vento che ha soffiato fino a 137 km all'ora in alta quota, le fiamme hanno distrutto oltre 2000 ettari di pinete, boschi e pascoli. E è una situazione incredibile. Tra l'altro, aprendo il quotidiano la Stampa, si vedono le foto. Sono tutte foto abbastanza impressionanti. Tanto una foto dall'alto in cui non si vede praticamente niente, sbuca la Mole Antonelliana da una diciamo nube bianco-grigiastra che avvolge completamente la città di Torino. Poi ci sono ciclisti con la mascherina in giro per la città, le ceneri degli incendi depositate sul parabrezza di un'auto e si vedono proprio distintamente. Così come si vedono le nubi che si sprigionano dagli incendi sulle montagne di Monpantero in Val di Susa, e poi anche i volontari in tuta arancione, tipo Chernobyl. Insomma, questo è quello che sta succedendo in Piemonte. Amici piemontesi, forza e coraggio. Ne parlano tutti i giornali, non solamente la Stampa, della questione piemontese. Oh, però c'è anche una bella notizia, c'è anche una bella notizia, non c'entra nulla col Piemonte assolutamente, anzi, però prima pagina sul Corriere, sul Sole 24 Ore, ma c'è anche altrove, Standard & Poor's. Ha alzato il rating. Ne parlano un po' tutti i giornali, ma invece, visto che sei già spostato sulle buone notizie, ne sono molto contento. Oggi è quel giorno in cui su tutti i giornali, di destra, di sinistra, di qualunque opinione, c'è una buona notizia in prima pagina. L'ora ovvero legale. L'ho fregato. Ovvero l'ora le solare che torna, perché solare, è quella solare, giusto, che torna. E in realtà la buona notizia non è che noi siamo schierati a favore dell'ora solare contro l'ora legale, ma è semplicemente che stanotte si dorme un'ora in più. E siamo felici. Andiamo però a vedere cosa si aspettano di trovare sui giornali di oggi i lettori. Questa volta la rassegna stampa on the road l'ha fatta Deborah Dirani. Andiamo? Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, a voi un'altra puntata della nostra rassegna stampa on the road. Com'è il giornale che vorrebbe? Che vorrei io? Non c'è un giornale veramente che vorrei. Io leggo il giornale sportivo, leggo la Repubblica, non è che leggo tanti giornali. Ma ci crede a quello che dicono i giornali? Poi fino a un certo punto. Quali sono le notizie che le piacerebbe leggere? Delle buone notizie. Un giornale indipendente. Cosa vuol dire un giornale indipendente? Che non fosse ostaggio dei poteri forti. Forse è indipendente. Che giornale stava leggendo? La Rosa. Come dovrebbe essere il giornale perfetto, quello che lei vorrebbe? Perfetto, non lo so, perfetto. Qual è la notizia che questa settimana l'ha colpita? Quella bella? È Visco. Mi dica un po' cosa ha fatto. Visco è stato implicato fino all'altro giorno, adesso l'hanno rinominato. È bello? Qual è stata la notizia di questa settimana che l'ha interessata di più? Il blocco delle pensioni. È con una tassa, già c'era una tassa, hanno fatto una sovrattassa sulle pensioni. E poi la bella notizia è quella di ieri, che si è dimesso Grasso. Perché è una buona notizia? Perché in un certo senso ha chiarito che lui non votava la legge se non fosse stato presidente del Senato. Allora, specially dedicated a questo, si dice così, dedicated, sì, spero di sì, a questo ascoltatore. Andiamo a vedere cosa si dice su Visco, ma abbiamo letto tutti i titoli. C'è forse sul Libero, l'abbiamo letto il titolo di Libero, l'uomo dello sfascio resta al vertice delle banche che ha rotto, Visco confermato a Banca Italia. E questo era forse l'unico titolo che non avevamo letto, ma in effetti ne parlano tutti i giornali. Sulla vicenda di Grasso c'è il presidente del Senato che si è dimesso da senatore del Partito Democratico. Grasso candidato, scrive Repubblica, e ritorna all'articolo 18, così nasce il listone MDP SI Civati, che sarebbe MDP SI Sinistra Italiana Civati. E queste sono le notizie, diciamo, dai cespugli della sinistra. Nella stessa pagina, sempre Repubblica dice: radicali, verdi e forse Pisapia, ecco chi lavora al polo riformista, il polo che potrebbe allearsi al Partito Democratico. Pisapia sarà domani a un convegno dei radicali all'Hotel Ergife a Roma insieme a Emma Bonino e a Benetto Della Vedova, con in collegamento anche Romano Prodi. Sembra un po' la spectre della reunion del centrosinistra oliviano, ma dice la Bonino: attenzione, il convegno non c'entra niente con le elezioni, si parla solo di Europa, le liste le presenteremo al congresso. Questo per quanto riguarda c'era altro dagli ascoltatori che hanno parlato con Deborah Dirani che volevano le buone notizie, ma qua ci siamo noi. Tra poco torniamo con le buone notizie dalla rassegna stampa di oggi. E poi però parleremo di una, forse di una buona notizia, dopo il GR delle 8 parleremo dell'incubo degli automobilisti, l'auto velox, perché c'è una sentenza della Cassazione. Naturalmente, amici al volante, rispettiamo sempre le norme del codice della strada, questo sì, però le multe a strascico fatte con l'auto velox potrebbero aver ricevuto uno stop dalla Cassazione, perché se non c'è contestazione della pattuglia nei tratti di strade rettilinee, strade extraurbane, ecco, la multa non è valida. Approfondiremo. E poi abbiamo il gioco oggi. Certo, ascoltatori, 800 24 00 24. La storia è quella di una ragazzina di 13 anni che è scappata di casa da Milano per andare a trovare il suo idolo, Valentino Rossi. Mitica questa ragazza, perché è andata diretta verso il suo idolo, verso la sua passione. Allora noi pensiamo che sia un bel gesto. Vi chiediamo quali sono i vostri idoli oggi. Per chi fareste una follia? Verso chi andreste? Verso chi scappereste? Perché? Per quale motivo? Ci vuole coraggio per avere delle passioni e per avere degli idoli. 800 24 00 24. Quali sono i vostri idoli? Noi siamo qua, tra poco dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Blackburn, I'm so alone without you, boy. Today and now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Come, come, baby, come. Allora, la storia è questa. Ricordando un gran premio di motociclismo proiettato su un maxischermo che aveva visto col padre, una ragazzina di 13 anni dell'Interland milanese si è allontanata da casa per raggiungere Tavuglia, che come sapete è dove abita Valentino Rossi. A ritrovarla l'altra notte, attorno alle 3 di notte, è stata una pattuglia dei carabinieri di Pesaro. Quindi una vicenda anche un po' come dire, con il fiato sospeso, perché i genitori erano preoccupati per la sparizione di questa ragazza, che poi ha ammesso: ho fatto una bravata. Insomma, è tornata lì dove aveva il ricordo legato a questo gran premio visto con il papà. È scappata da Valentino Rossi. Noi oggi vi chiediamo quali sono i vostri idoli, no? Insomma, abbiate il coraggio di confidarcelo in onda. Ci vuole coraggio per avere delle passioni e avere degli idoli. 800 24 0024. Che non devono essere per forza degli idoli sportivi, possono vale essere tutto. Anche degli idoli d'un altro tipo. Vale tutto, vale tutto. E poi vi chiediamo anche, come controllori dei fatti, ascoltatori, visto che parleremo di autovelox, di raccontarci le multe più strane, più assurde che avete ricevuto con l'autovelox. Ma anche senza. Anche senza, vale tutto, vale tutto. E valgono soprattutto le buone notizie. L'ho detto, il rating aumenta, questa è una buona notizia seria. Standard & Poor's alza il rating dell'Italia, la crescita sarà migliore. E siamo adesso tripla B. Tripla B, la promozione, tra l'altro, è la prima in assoluto da parte di Standard & Poor's e la prima degli ultimi 15 anni da parte di un'agenzia di rating. C'era un tempo nel quale i pronunciamenti delle agenzie di rating mandavano in fibrillazione l'Italia e i mercati e sembravamo a un passo dal fallimento. Adesso questa è una notizia che passa così, questa promozione, quasi in sordina. Non soprattutto perché quando venivamo declassati c'erano un sacco di conseguenze terribili e ci spiegavano che erano colpa del declassamento. Adesso che invece siamo stati rialzati, vorrei vedere se si vedono dei vantaggi, tipo, non so, la benzina costerà meno, perché di solito non succede mai, succedono, esatto, solamente le cose negative. Non ed c'è è per premio. Questo che andiamo a cercare delle buone notizie spesso, come per esempio questa. Allora, riguarda Venezia ed è il tormentone delle grandi navi. No, direte voi, ancora la questione delle grandi navi. Ebbene sì, per questa città quello delle grandi navi è un rischio potenziale, lo sappiamo, dopo quello che è accaduto al Giglio. Ebbene, il governo sembra che abbia deciso, perché se ne è parlato tanto in passato, supernavi via da San Marco, scrive il Corriere della Sera, pagina 21, nuova rotta a Marghera. L'annuncio ha dato il ministro Del Rio: dal 2019 le crociere lasceranno gradualmente il bacino e il canale della Giudecca, non entreranno più dalla bocca di porto del Lido, passando poi davanti a Palazzo Ducale, ma dalla bocca di porto Malamocco, che attraversano già ora le porta container, e percorreranno il canale dei petroli costeggiando le fabbriche. Insomma, andranno verso Marghera. E invece su Repubblica una buona notizia, direi: al lavoro il Politecnico di Zurigo, più adattabile al corpo umano. Si sta parlando di un nuovo cuore artificiale che sarà su misura, ma soprattutto sarà di silicone e si potrà stampare in 3D. Quindi anche una notizia per Temporelli, che lungamente ci ha raccontato sia l'anno scorso sia quest'anno delle stampanti in 3D e di quante cose pazzesche che fanno. Arriva, pare, il cuore in 3D. Ci chiediamo silicone, se sia una buona notizia, sì, o meno, perché forse questa cosa presuppone che finalmente l'umanità possa essere senza cuore. Senza cuore. Ma poi di silicone, come una tetta qualsiasi. È incredibile, è incredibile. Va bene, questa però è la scienza. Allora, ancora buone notizie, per esempio a Genova, il secolo XIX, su un'altra questione come quella della movida che riguarda un po' tutte le città. Ebbene, sembra che insomma la giunta comunale abbia raggiunto un punto di equilibrio che potrebbe essere un punto di equilibrio buono per tutti, ecco perché la buona notizia. Movida si cambia, locali aperti fino alle 3 di notte, ma confermate le maxi multe da 200 euro per chi beve in strada. Insomma, il compromesso è questo, visto che in queste zone del centro, ne abbiamo parlato tante volte, spesso tra gente che alza il gomito, bicchieri rotti per strada, schiamazzi, diventava una follia. Ci sono le multe che si inaspriscono, però i locali restano aperti fino a più tarda notte rispetto al passato, quindi si può stare fuori, si può bere birra, tutto quello che ci pare, nei locali, senza fare troppo casino all'esterno, e per salvaguardare giustamente anche chi abita in quelle zone. Chissà se questo sarà un punto, un compromesso buono. E poi ancora sulla Stampa, ci occupiamo sempre di rifiuti e di spazzatura, anzi addirittura ci siamo occupati prima di altri di raccolta porta a porta e di migliorare il riciclo dei rifiuti, quindi addirittura questa anche forse è una notizia per il futuro: addio spazzatura spaziale con i nostri mini motori. È una startup italiana di Torino che firma un accordo con il Politecnico. L'obiettivo è quello di produrre e depositare brevetti che permetteranno di rottamare in modo sicuro e pulito i satelliti che hanno finito la loro missione, ovvero la questione dei satelliti che hanno ancora magari del carburante ma che hanno finito la loro missione, dove vanno a finire. Alcuni si decide di farli tornare sulla Terra, invece altri si decide di farli andare su un pianeta scelto, diciamo un cosiddetto pianeta di scarica. Chissà se è il futuro. Allora, io ho anche il bike sharing libero che si estende all'Interland milanese, interessati 40 comuni, quindi bici libere non solo a Milano centro ma anche nella periferia. E qui ne abbiamo parlato settimana scorsa. Esatto, ma adesso è il momento del comune ribelle della settimana, la rivolta delle belle idee. Sentiamo Marco Boschini dove ci porta. Ciao Carlo, il comune ribelle di questa settimana è Ferla, 2500 abitanti in provincia di Siracusa. Qui la giunta ha emesso un bando pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all'uso di un terreno di 2000 metri quadrati attualmente inutilizzato per mancanza di risorse. Si sa, i comuni faticano ad arrivare alla fine del mese, le risorse scarseggiano e i problemi del quotidiano sono sempre troppi per pensare a questo genere di cose. Di qui il senso di un bando per far gestire ai cittadini quei terreni in cambio di servizi resi alla collettività: lo sfalcio dell'erba, la potatura degli alberi, il controllo e le manutenzioni. Chi si farà carico di questa scommessa potrà beneficiare dei frutti della coltivazione del terreno. In pratica, un pezzo di territorio non presidiato e fermo torna a vivere attraverso un percorso partecipato che riattiva la comunità e trasforma un problema in un bene comune. Benissimo, questa era Ferla in provincia di Siracusa, il comune virtuoso della settimana con Marco Boschini. Abbiamo però Giovanni che ci chiama da Roma, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Un minuto per chiudere, vai. Sì, niente, dato che chiedevate chi fosse il mito, il mio mito è l'ingegner De Sandre, che è l'uomo che nel mondo ha progettato il primo computer da tavolo, e io l'ho visto in televisione. L'ho trovato sul elenco telefonico. Il computer o il signor De Sandre l'ha visto in televisione? Ah, va bene, prego. Sì. E quindi l'ho chiamato, ho chiesto di andare a casa sua. E l'ho incontrato. L'ho incontrato. Bellissimo, noi però dobbiamo chiudere perché abbiamo il giornale radio. Ingegner De Sandre, il mito di questo ascoltatore, magari dopo sentiamo come è andata a finire questa storia. GR. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Teach me. Allora, che cosa si è mosso questa settimana? Per esempio, il Nicaragua ha firmato l'accordo, in tema di buone notizie, sul clima di Parigi. Vi ricordate, un anno fa, fra poco sarà passato esattamente un anno. Quindi adesso sono gli unici due paesi al mondo rimasti esclusi dagli accordi sul clima di Parigi, sono la Siria e gli Stati Uniti. E quindi niente, insomma, avanzano gli accordi sul clima di Parigi, è sempre una buona notizia, eh? È sempre una buona notizia, invece, della quale ci siamo occupati spesso, l'algoritmo sbagliato di Trenitalia, quello che aveva fatto pagare per 10 anni, insomma dal 2007, degli abbonamenti molto più alti. È ufficialmente, il vecchio sistema non è più in vigore dal 1 ottobre. Più che una buona notizia, questa, cioè, diciamo, più che un si può fare, è un si dovrebbe fare più rapidamente, perché il nuovo algoritmo per calcolare gli abbonamenti entrerà in vigore ad aprile, quindi in tutto questo periodo in realtà si pagheranno di più, però poi si potrà richiedere il rimborso, speriamo. E c'è ancora tutta la questione del fatto che i rimborsi non si possono chiedere per cose accadute più di 5 anni fa, quindi dal 2007 al 2012 è tutto in prescrizione, diciamo, e dal 2012 al 2017 va ancora capito come verranno rimborsati i passeggeri. Benissimo, 800 24 00 24. Oggi, cari ascoltatori, vi chiediamo, di come controllori dei fatti, di raccontarci le multe più assurde che avete ricevuto, perché tra poco parleremo di una sentenza della Cassazione che rende non valide le multe fatte con gli autovelox in alcune limitate circostanze, quindi non ci esaltiamo troppo, però è vero che, insomma, in questi anni con le multe, si è detto spesso, i comuni fanno cassa. A volte capita che i limiti cambiano, 50, 70, 90, da un momento all'altro i cartelli sono nascosti dagli alberi, passi e ti becchi una multa ingiustamente con l'autovelox. Vedremo tra poco quali sono le multe non valide con l'autovelox. 800 24 00 24, vi chiediamo anche di raccontarci oggi chi sono i vostri idoli. I vostri idoli, perché esattamente come è successo a questa ragazzina di 13 anni di Milano che è scappata verso Tavuglia, il paese di Valentino Rossi, mettendo tra l'altro in allarme anche i genitori, poi ha detto: era una bravata, sono andata dal mio eroe, dal mio idolo. È bello avere degli idoli, ci vuole coraggio per avere degli idoli. Quali sono i vostri? 800 24 00 24. Allora, è con noi Silvio Scotti, ex comandante della Polizia Locale di Monza e Milano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Per l'invito. Attualmente dirigente amministrativo del Comune di Milano. Scotti, ci aiuti un po' a capire, in effetti, questa sentenza dove ci porta... perché, insomma, si parla di multe con l'autovelox non valide in casi, io lo dico, probabilmente sbaglierò, lei mi corregga, di rettilinei extraurbani, di strade secondarie, se non c'è la pattuglia, per una serie di motivi che adesso lei ci spiegherà. Sì, dunque, io ho esaminato l'ordinanza della Cassazione. In realtà quello che dice è che nel verbale avrebbe dovuto essere specificato in maniera chiara il motivo per cui non è stato possibile fermare l'automobilista. Ecco, teniamo presente che in linea sempre generale l'articolo 201 del codice della strada prevede tutta una serie di casi in cui non è necessaria la contestazione immediata. Cioè, quando ci si trova in quei casi, la contestazione immediata può essere evitata. Mentre in tutti gli altri casi di mancanza di questa contestazione immediata, che significa fermare l'automobilista, identificarlo e contestare il verbale, negli altri casi bisogna dire come mai non si è potuto fermare il veicolo, cioè specificare quali erano le situazioni di fatto. Per esempio, immaginiamo un agente di polizia stradale che sta regolando il traffico oppure è impegnato in un'altra mansione, non fa in tempo a fermare il veicolo, sì. Lo deve scrivere sul verbale e deve risultare chiaramente il motivo al trasgressore, quindi deve essere esplicitato questo motivo. Questo dice la Cassazione. Teniamo presente però che la stragrande maggioranza degli autovelox sono quelli che funzionano in automatico. E quindi, cioè non presidiati. Esatto, e quindi quello proprio per una motivazione che risiede in ambito legislativo, è possibile farli funzionare in automatico senza la presenza di agenti e di conseguenza ovviamente con una notificazione successiva che deve avvenire entro 90 giorni. Mm. Perché insomma noi non è che stiamo dalla parte dei trasgressori del codice della strada, però sappiamo bene che spesso con gli autovelox si fanno multe, magari autovelox posti con cartelli non chiaramente visibili, limiti di velocità che cambiano all'interno della stessa strada, 50, 70, 90, e a volte sembrano delle vere e proprie trappole di denunce, in questo senso ce ne sono tante. Allora un po' di chiarezza da questo punto di vista ci sembrava una buona notizia. C'è stato un po' un eccesso di lo chiedo a lei che è dall'altra parte della barricata da questo punto di vista, però proprio per questo, proprio per il lavoro che fa, forse è in grado di dircelo, di eccesso di multe di questo tipo in questi anni, con cui si dice i comuni insomma cercano di tirar su un po' di cassa, ma non di fare una corretta controllo di quello che accade sulle strade. Dunque, dobbiamo innanzitutto precisare che c'è stato un aumento veramente considerevole, apparso anche qualche mese fa sulle varie testate, anche su Sole 24 Ore, proprio delle violazioni rilevate, cioè sono aumentati gli accertamenti. Sempre di più vengono messi apparecchi automatici sulle strade e questo ovviamente determina una conseguenza terrificante, cioè e la macchina fa esattamente quello che gli viene detto, non ha limiti di tolleranza. Laddove gli diciamo di controllare il transito con il semaforo rosso oppure l'eccesso di velocità, lo fa puntualmente. E quindi da questo punto di vista abbiamo un ritorno che ovviamente è molto elevato in termini di sanzione. Questo percentualmente determina anche una serie di errori che effettivamente esistono, magari il cartello che è stato sistemato male piuttosto che è coperto da frasche oppure in situazioni dove i limiti cambiano rapidamente, e questo ovviamente fa aumentare i contenziosi. Dopodiché sulla base dei contenziosi l'amministrazione riallinea i propri sistemi di rilevazione e continua così una evoluzione che molte volte è anche rapidissima proprio del rapporto tra la circolazione stradale e la rilevazione delle violazioni. Però mi scusi, le volevo chiedere una cosa. A noi questa sembra in parte una buona notizia, soprattutto per un motivo, perché ci sembra giusto che i poliziotti, diciamo i vigili, debbano dire come mai non hanno fermato la macchina, perché noi crediamo che lo scopo sia quello di limitare le macchine pericolose che circolano in giro e non invece fare cassa. Quindi io mi chiedo come mai quello lì che stava andando a 140 all'ora non è stato bloccato, ma semplicemente uno gli manda a casa un fogliettino dicendo mi devi 280 euro? Ecco, questo, ripeto, è proprio previsto dalla legislazione vigente, cioè nel senso che soltanto laddove si utilizzino degli apparecchi che consentono, per esempio, di verificare a notevole distanza la velocità del veicolo, per esempio immaginiamo il telelaser. Il telelaser consente la verifica della velocità a distanza dal posto di controllo e quindi è possibile effettivamente fermarlo. Ma laddove c'è invece un autovelox, quelli diciamo così tradizionali, sono quelli che registrano la velocità al transito del veicolo. Se in quel momento la pattuglia sta controllando l'autovelox e non c'è una pattuglia più a valle, è impossibile fermarlo. Teniamo conto però anche di un'altra cosa molto importante: è necessaria la contestazione immediata, soprattutto perché è importante individuare l'autore della violazione, perché noi dobbiamo colpire e diciamo così far rientrare nell'ambito della normalità il trasgressore e non la nonna volte... e non la nonna del trasgressore che di solito ha tutti i 20 punti sì. e se li fa scalare è sempre lei alla guida dell'auto, perché chiaramente se non c'è contestazione il rischio è quello. C'è un altro caso, Scotti, che ci ha colpito perché spesso uno pur sapendo che ci sono degli autovelox con limiti di velocità, a volte può capitare, no, in strade con 90 km, strada doppia corsia, rettilineo. Sì, si potrebbe andare a 100, a 110 tranquillamente, non c'è nessuno, c'è il limite a 90, allora vai a 90, 95 perché c'è un margine di tollerabilità. una multa è stata confermata per un eccesso di 1,3 km sul limite di velocità, che uno dice accipicchia. È così, è giusto, no, è però corretto. Bisogna essere precisi, è sì. 1,3 oltre la soglia di tolleranza, quindi c'è già giusto. La soglia di tolleranza e a un certo punto bisognerà decidere, da un certo punto in però poi bisogna farla la multa. Però quant'è la soglia di tolleranza? Ecco, diciamolo una volta per tutte, così la smettiamo di giocare sul filo. Ecco, la soglia di tolleranza è il 5% della velocità con un minimo di 5 km orari. Di conseguenza, in realtà, quando noi transitiamo per esempio in città, la prima soglia in cui veniamo sanzionati è 56 km orari, mentre se per esempio fossimo fosse un limite di 120 orari sull'autostrada, ecco che si calcolerebbe il 5%, sarebbero 6 km, di conseguenza si verrebbe sanzionato a partire dai 127 km orari. Poi esiste il problema delle soglie, nel senso che qualunque soglia può essere superata di pochissimo, certo. E di conseguenza anche soltanto di 1,3 km. A quel punto basta veramente poco. Io invece le volevo chiedere un'altra cosa, nel senso che ovviamente l'autovelox suppongo che abbia un effetto deterrente, quindi va bene che gli venga data la multa anche nel momento in cui non viene fermato l'automobilista, ma io mi chiedo, l'autovelox rende veramente le strade più sicure o in realtà tutti sappiamo bene o male dove sono? Io non ho la patente, quindi esco dal conto, però tutti bene o male sanno dove sono e rallentano quando c'è l'autovelox e quindi in realtà non rende le nostre strade più sicure. Dunque, questo è senza dubbio un effetto della legislazione che da qualche anno a questa parte ha previsto che gli autovelox debbano essere presegnalati, devono essere presegnalati secondo regole estremamente precise. Però teniamo anche presente che un uso corretto degli autovelox, se li posiziono nei punti dove c'è una maggiore incidentalità, nei punti dove la geometria della strada li rende particolarmente pericolosi, dove ci sono delle confluenze, almeno ecco lì che, andranno piano. Esatto, ecco che ottengo un effetto deterrente, inizialmente con i cartelli che devono essere ben visibili, molto chiari, perché l'effetto è quello di far diminuire la velocità e non senza dubbio quello di fare sanzioni. Dopodiché, per chi non si adegua, ci deve essere la sanzione. Questo è certo. Evidente. Allora, noi chiediamo stamattina agli ascoltatori di farci da controllori dei fatti. I fatti sono che spesso le multe arrivano per le storie più assurde, per i casi più assurdi, compresi autovelox vari. Carlo da Verona, sentiamo, poi torniamo con Silvio Scotti. Vai, sì, Carlo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora io segnalo un altro tipo di problema. Mi è successo più di una volta a Milano. Sbaglio perché non sono di Milano, sì. e imbocco una via anche piccola magari che ha la telecamera, sì. Per uscire prendo 3 multe perché obbligatoriamente devo girare attorno all'isolato e riuscire non e ripassare, ma tutto in contromano, ci sta dicendo che se prende una via sbagliando in contromano sbagliando nel senso che zona pedonale, ZTL, cioè continui certo. A girare nello ZTL e ti becchi una multa, due multe, quante multe hai preso? Ne ho prese 3 di seguito in un minuto, solo questa, per uscire. Questo è chiaro, mio... Silvio Scotti, qui è una come si dice, una contravvenzione sola o sono 3? Cioè lui ha fatto lo stesso errore, però ha dovuto uscire, quindi ha preso 3 telecamere diverse. Certo, premetto che non parlo di Milano perché ovviamente... Non voglio assolutamente, è un limite. Diciamo che parlo in linea generale delle zone a traffico limitato. Nelle zone a traffico limitato ci sono situazioni diverse e ovviamente devono essere presegnalate. Se non sono presegnalate, la multa va contestata. Se viceversa sono presegnalate correttamente, è necessario anche porre attenzione perché solitamente non è la stessa sanzione, è semplicemente una situazione dove si entra da una ZTL in un'altra ZTL. Teniamo anche conto che purtroppo nelle ZTL vale il cumulo materiale delle violazioni, il che significa che le persone che commettono più violazioni significa che siamo spacciati tutte quante, abbiamo capito. Quindi l'ascoltatore aveva torto e basta. Senta, però, per uscire così in bellezza da questa ginepraio di multe, a Parigi si sta sperimentando, le voglio chiedere che cosa ne pensa, per diminuire l'inquinamento e lo smog, di eliminare una serie di semafori. cioè spegnere i semafori per rendere il traffico più fluido, che anche questo è il sogno di molti. Che ne pensa? C'è un rischio concreto di ingorgare di incidenti la città o no? Dunque, da questo punto di vista teniamo presente che ci sono esperimenti anche più avanzati. A Drachten, per esempio, in Olanda, hanno tolto completamente la segnaletica. Si tratta di una città di 45.000 abitanti. Tutta la segnaletica? Tolta tutta la segnaletica, sì, è un fatto abbastanza risaputo. Adesso non so poi quali siano stati i risultati. Diciamo ma noi adesso andiamo a studiarli. Scusi, l'ho interrotta. Prego, ma mi pare che la cosa sia cominciata qualche anno fa, nel 2011, e si tentava diciamo di responsabilizzare gli automobilisti, così come ci sono esperimenti in varie città del mondo delle strade condivise, cioè senza segnaletica, soltanto alcune strade, dove diciamo che i pedoni, i ciclisti e le auto, fatto salvo che si tiene alla destra, si autoregolano. Quindi lei è ottimista sulla possibilità che il traffico possa autoregolamentare? No, io non sono particolarmente ottimista. Dico che si sta provando in queste strade. Si sta provando questa strada perché in realtà la circolazione diventa sempre più caotica, sempre più problematica, i limiti sono sempre di più e soprattutto anche le fonti di disattenzione, per esempio il cellulare, sono sempre di più. Va bene, quindi onore a Parigi che sperimenta semafori spenti per fluidificare il traffico. Grazie Silvio Scotti, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. È il momento di sentire la vostra voce, cari ascoltatori. Andiamo con Davide che ci chiama da Perugia. Vai Davide, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. No, io vi chiamo da Tavuglia più che altro. No, da Pesaro, avevo detto al telefono. Infatti Pesaro. Sei Valentino Rossi? Sì, abito proprio vicino a lui, ma il mio idolo è un altro. Volevo segnalare che il mio idolo è Gianfranco Zola. Sì. Ma è bellissimo, sei il vicino di casa di Valentino Rossi, potresti andare a Citofonali, invece tuo idolo no. è Zola. Sì, praticamente io abito a 2 chilometri dalla villa del padre, insomma, sono proprio vicinissimo. Perfetto. Va bene, va bene. E come mai Zola? Perché io sono infermiere, quindi 3 anni fa lavorai a Nuoro, è successo un episodio particolare che dimostrava la sua grandezza. Praticamente mi sa che avevo una parente anziana che era caduta, aveva rotto un femore, me lo sono trovato in corsia da sta anziana, sono entrato in camera, l'ho visto da vicino, ho detto Madonna, va. Sei te Gianfranco, e si gira, era lui, quando ho detto Gianfranco Zola si è fermato tutto il reparto. Immagini in Barbagia chi può essere Gianfranco Zola, no? Un mito. Ma scusa Davide, ma è diventato Zola il tuo idolo in quel momento già da prima? Magic Box penso che sia l'idolo per tutti, no? Però vedere dal vivo l'umiltà di sta persona che quasi si vergognava di essere famoso in mezzo alla gente lì, andando ti ha colpito Davide. Benissimo Davide, grazie Gianfranco, grazie Zola mille. Comunque Davide parla a Tavuglia, parlano tutti così, tutti come Valentino Rosso, senti che parla, c'ha la stessa voce. Grazie, ciao, buona giornata. Andiamo con Luigi. Ciao, da Firenze. Complimenti. Sì, io ho 42 anni, sarò antico, però ho trascorso l'infanzia fino a 22 anni nel meridione con mio nonno ed ero talmente attaccato che in pratica poi mi ha lasciato, però è il mio mito perché 3 anni fa ero 110 kg, ho praticamente detto mi metto a correre, poi tramite persone al seguito ho preparato una maratona, mio nonno non c'era, io praticamente avevo previsto un tempo di 6 ore, 5 ore, però praticamente gli allenamenti andavano bene. Vi devo dire che l'ultimo momento della maratona, dal 30° in poi, ho pensato a mio nonno, il mio mito che mi spingeva dall'aldilà, e l'ho conclusa in 3 ore e 20. E quando sono arrivato è stata un'emozione speciale, quindi io devo dire che il mio mito, che non c'è più e che ancora prende un forte ricordo antico. Ma perché ti spingeva, Luigi? Perché tuo nonno era un tipo intraprendente, era un tipo un motivatore, era un tipo che se fosse stato in vita ti avrebbe stimolato a fare questi sforzi? No, era il contrario, era molto duro con me, sì. E io gliel'ho fatti di ogni istante, però non apprezzavo quando c'era mio nonno tutte le cose faceva, cioè mi rendeva praticamente un po' non succube, ma un po' stretto in un cerchio, però poi ti rendi conto che quando non ci sono più queste persone ti mancano. Allora io quando praticamente ho programmato di fare una maratona che sono 42 chilometri, sì. Ho detto la dedico a qualcuno, perché ognuno di noi la dedica a qualcuno. E l'hai dedicata a tuo nonno. Dedicandola a mio nonno, gli ultimi 12 chilometri, che sono i più duri, pensando a lui avevo le ali ai piedi. Adesso penseremo tutti a tuo nonno quando facciamo una maratona. Ma quanto pesi adesso? Io adesso sono 64 kg. Complimenti. Grazie Luigi, grazie. Buona giornata. Facciamo veloce anche Marco. Siccome anch'io pesavo 111 kg e adesso ne ho persi 35, ero incuriosito. Lui senza ne pesava 110. Tu senza maratona. Io senza maratona. Prego. Marco, vai. Salve, buongiorno. Buongiorno. Il mio mito era il professor Di Chichi, che venne a fare una presentazione dei progetti del CNR quando io ero alle medie. Sì. Allora, galvanizzato dalla cosa, gli espongo i miei progetti tramite una lettera che i miei genitori hanno dovuto trovare l'indirizzo e tutto, e sono stato arrabbiatissimo per almeno 2 anni perché non ricevetti neanche una risposta. Tu gli hai scritto per 2 anni costanti proprio. E poi cosa è successo? Poi niente, poi si è svanito, però oggettivamente ci rimasi molto male da bambino. Ma quanti anni avevi quando gli hai scritto? Prima media. Cioè, però ci credevo proprio un molto. Bambino. Sì. Sì, e poi sì, hai smesso, e quello lì non è più il tuo mito, hai smesso di... No, non è più il mio mito, rimane comunque una persona interessante, un ottimo comunicatore, ma... scusa Marco, mettiamo il caso che tu abbia sbagliato indirizzo, no? Può anche essere che è successo questo, magari non è colpa sua. Se avessi sbagliato l'indirizzo, il caso ha voluto che non fosse stato illuminato dalle mie grandi idee. Quindi... Vabbè. Bisogna insistere. Comunque, grazie, speriamo Marco. Che ci abbia ascoltato e che adesso ti risponda, che recuperi questa vecchia lettera con qualche anno di ritardo. Grazie Marco, buona ciao, buona giornata. Grazie adesso, tra poco il cervellone qua della redazione di Si può fare blu blu blu, estrarrà la telefonata, ma c'è ancora tempo, che c'ha l'idolo che ci è piaciuto di più, ma non tanto l'idolo quanto la motivazione. Abbiamo l'ingegner De Sandre, Zola, Zi Chichi e il nonno di Luigi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Trovarci niente proprio di meno che Rossano Ercolini. Buongiorno Rossano. Buongiorno. Che annuncio. Ragazzi, che accoglienza, grazie a voi. Siamo tutti con te sempre e comunque. Allora, grazie. Qual è stato il primo comune italiano ad adottare la strategia zero rifiuti? I nostri ascoltatori lo sapranno bene. No, lo dico a te, Rossano, perché tu lo sai. È un quiz per sapere se sei veramente Rossano Ercolini. È semplice, perché è pieno di imitatori e di millantatori, esatto. E quindi facciamo così. Lo dico io, Capannori. Quanti anni fa? 10 anni fa. Oggi quanti sono i comuni? E questo lo chiedo proprio a te, Rossano Ercolini, per dare l'idea. Sono 272, senza includere il comune di Roma, che ancora diciamo, sotto istruttoria, ancora abbiamo alcune questioni da chiarire reciprocamente. Tentenna, come no, no, il cognome è deciso, siete voi che state cercando, perché questo bisogna dirlo, cioè non è che un comune dice allora faccio anch'io zero rifiuti, bisogna vedere le intenzioni reali, certo, piani, progetti, e ci state lavorando. Tutti oggi e domani vi ritrovate per il grande raduno, dove? A Campi Bisenzio, nella Piana Fiorentina, uno splendido parco, Villa Montalvo, e adesso stanno arrivando i sindaci, stanno arrivando le delegazioni, sarà un incontro alla pari non solo per i sindaci, gli assessori, ma anche per i comuni cittadini, per i comuni mortali. Certo, non è uno scherzo. Di comunità che Rifiuti Zero mette in movimento, non solo il decisore politico, ma soprattutto la società civile. Non è uno scherzo, parliamo di tanti comuni italiani che rappresentano quasi 6, forse poco più di 6 milioni. Più di 6 milioni. 6 milioni e 200 mila abitanti. Che si stanno impegnando per questa strategia Rifiuti Zero, ma che sostanzialmente già stanno mettendo in pratica livelli di raccolta differenziata elevatissimi, pratiche di porta a porta. Però non sono tutti d'accordo in Italia su questa strategia, che adesso sembra quella che vada per la maggiore, diciamolo, perché voi proprio lì siete a Firenze, dove c'è una contestazione per quanto riguarda un inceneritore, perché voi gli inceneritori non li vorreste vedere nemmeno in cartolina. In cartolina va bene. Non plastificata. Se facciamo l'inceneritore, no, non attuiamo le buone pratiche. È un discorso matematico, non è solo una fissazione nostra. È proprio un problema di organizzazione dei sistemi. Da un lato, se si vogliono promuovere le buone pratiche, non c'è bisogno di macchine costosissime che ingessano il sistema. Dall'altro, se si investe nell'inceneritore, c'è bisogno di rifiuti. Se non ci sono a livello locale, come dimostrano i grandi inceneritori del nord Europa, devono importare rifiuti, e fino a poco tempo fa la stessa Napoli portava i rifiuti a Rotterdam. Quindi è un discorso molto laico, molto, molto concreto dal punto di vista della flessibilità del sistema di organizzazione della raccolta, valorizzazione dei materiali di scarto, e non c'è niente assolutamente dogmatico. È un discorso comunque molto chiaro quello che stai facendo. Se c'è un inceneritore, evidentemente ci sono dei rifiuti da buttare dentro e bruciare, quindi non siamo a Rifiuti Zero. Esatto. L'investimento non viene, molto oneroso, e quindi deve essere ripagato nel tempo, e questo è un dato oggettivo, al di là proprio delle polemiche o di una conflittualità artificiosa. Anche perché ricordiamoci, non sono rifiuti, ma sono materie prime quelle che stanno nell'ambito, diciamo così, dei rifiuti, e quindi non bruciamole, ma riutilizziamole, visto che l'Italia, ce l'hai insegnato tu, è un paese che non ha tante materie prime. Io mi immagino il catering, come lo fate? Con stoviglie lavabili, tutto i bicchieri in vetro, le lavate voi personalmente? No, alla fine? Questo no. Beh, però con un usa e getta c'è stata anche un po' di discussione, sì. Chi voleva il cosiddetto materbill, la bioplastica, e certo, chi invece come noi, come le mamme, noi inceneritore, ha preferito la cellulosa, che è autocompostabile, ce la possiamo compostare da soli nel composto, mentre la bioplastica ha bisogno di un trattamento industriale, e è una battaglia durissima, dovete usare posate commestibili. Dobbiamo chiudere, lo sanno i colleghi, dobbiamo salutarvi perché abbiamo finito il tempo a disposizione. In bocca al lupo a Zero Rifiuti, a tutti gli amministratori. È tutto, ci sentiamo domani. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Loricella. Ciao da Alessio Maurizzi. Ciao da Carlo Gabardini, buon sabato.